Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Eravamo verso la fine del turno pomeridiano e a un certo punto il telefono aveva suonato per un servizio. Il compito era fare da taxi per una ragazza più giovane di me che dal mio paese doveva correre a Padova, dove, da qualche sfortunato donatore, si erano resi disponibili due polmoni che a lei servivano più dell'aria. Sono Paolo Casero, ho 36 anni e vivo a Canegrate, in provincia di Milano. Faccio l'architetto e sono un libero professionista. Fare del bene così, per fare del bene, gratuitamente. 349-238-6666. Oggi è un martedì qualunque, 16 ottobre 2012. È tornato il sole su Milano, ma credo ancora per poco. Sono le 16:08 minuti. Questa è Radio 24. E la storia che raccontiamo oggi, quella di Paolo, la storia del giorno, sapete, ogni giorno raccontiamo una storia diversa. Se volete raccontarci la vostra, voi siete qui, @radio24.it. Una pagina, un racconto di una pagina, non di più. Però un episodio che racconti qualcosa di voi. E la storia di Paolo parla proprio di questa, parla di un episodio legato alla sua attività, qualche anno fa mi pare, di volontariato per la Croce Rossa, in cui durante quel periodo fece questo servizio, incontrò una ragazza, adesso la storia la racconteremo molto meglio, però di fatto parla di quando fare del bene in maniera gratuita, cioè senza aspettarsi nulla in cambio, ti fa stare un po' meglio. Se c'è qualcuno che oggi, da questa mattina alle 16:09, nella sua vita in generale, ma oggi in particolare, ha fatto qualcosa, ha fatto del bene in maniera gratuita, senza pretendere nulla in cambio, 349-238-6666. Sul profilo Facebook del programma Andrea scrive: dono il sangue. Vabbè, e questa vale. Però sai, donare il sangue rimane lì sdraiato. Certo, poi sei un po' debole. Tra l'altro, se doni il sangue hai anche un giorno di ferie, o sbaglio, no? Di malattia. Vabbè, hai un giorno libero dal lavoro, giusto? Pietro la corte è disperato. Donate il sangue! Io lo dono il sangue. Però non ho il giorno di ferie. Dopo non c'ho il giorno di ferie. 349-238-6666. Dono un sorriso, una barzelletta. Ecco, Peppe, no, parliamo di donare delle robe che abbiano un senso. Cioè, un sorriso è facile, una barzelletta spesso è meglio di no. 15 anni di servizio di Croce Rossa, scrive Florindo. Da qualche mese mi sono dimesso perché il lavoro e la famiglia non mi permettono di proseguire. Il prossimo obiettivo è trovare un'altra forma di volontariato. Io mi ricordo le feste della Croce Rossa. Al paese di fianco al mio c'era la sede della Croce Rossa e mi ricordo che d'estate si facevano sempre queste feste, credo per raccogliere fondi con il banco di beneficenza. Si mangiavano delle gran salamelle. Mario, da qualche anno mi occupo all'interno di un'associazione Onlus di formazione genitoriale. In pratica aiutiamo i genitori a fare i genitori, organizzando incontri e corsi di formazione per genitori efficaci metodo Gordon. Cos'è il metodo Gordon per genitori efficaci? Sembra metodo Bosman, sentenza Bosman. Fare il genitore non è sempre semplice, soprattutto oggi, e molti sono in difficoltà. Credo che non sia mai semplice fare il genitore. Ma cosa ne so, visto che sono un figlio e non un genitore? 349-238-6666. Chiara, da anni mi prendo cura dei ragazzini dell'oratorio del mio paese. Cerchiamo di educarli il più possibile al rispetto, al pensare con la propria testa. Loro si confidano, ci vogliono bene, e nonostante a volte sia faticoso e occupi gran parte del nostro tempo, ne vale sempre la pena. Qualsiasi, piccola opera benefica, non prendetelo nel termine più altisonante possibile, qualcosa che faccia del bene in generale, che lo facciate in maniera gratuita. 349-238-6666. Più tardi, visto che oggi parliamo di una cosa così alta, anche se poi è così pratica come fare del bene, abbiamo chiesto, come facciamo ogni tanto, a qualcuno che ne sa più di noi di raccontarci che cos'è il bene, in senso proprio, in senso lato, assoluto, e l'abbiamo chiesto a Edoardo Camurri, che dopo la borsa sarà in diretta al telefono con noi. È arrivato il momento di raccontare la storia però di Paolo. Paolo ci parla di gratuità e ci parla di volontariato. Ero un soccorritore della Croce Rossa e svolgevo quell'attività durante il servizio civile. Mi piaceva molto. Per 2 anni ero stato volontario per lo stesso ente e avevo acquisito una certa esperienza, così che ero sempre messo sui casi di emergenza, come secondo del capo più esperto. Molte erano le cose brutte che si vedevano e che soprattutto si vivevano. Le disgrazie altrui diventavano anche le tue, per alcuni concitati momenti. e poi in genere te le dimenticavi. A volte no. Qualche volta ti rimanevano addosso e non andavano via più. Io ho fatto il soccorritore della Croce Rossa perché volevo provare a inizialmente levarmi di dosso la paura delle sirene delle ambulanze che avevo da bambino. Poi facendo il soccorritore ho tolto la paura e imparato un mondo di altre cose. Quel giorno del 2001 fu diverso. Eravamo verso la fine del turno pomeridiano e ad un certo punto, come succedeva spesso, il telefono aveva suonato per un servizio. Una cosa diversa però stavolta. Praticamente fare da taxi per una ragazza più giovane di me, che dal mio paese doveva correre a Padova, dove, da qualche sfortunato donatore, si erano resi disponibili due polmoni che a lei servivano più dell'aria. Perché da lì a qualche mese, con i suoi di polmoni, dell'aria non se ne sarebbe fatta più nulla. C'era fretta. Gli organi espiantati richiedevano che il ricevente fosse pronto in sala operatoria per le 8:30 di sera. Un mio collega obiettore era destinato a quel servizio, lui però non aveva voluto andare, perché il viaggio a Padova, fra andata e ritorno, lo avrebbe fatto arrivare a casa tardi e lui aveva già preso degli impegni. Avevano chiesto chi fosse disponibile e mi sono fatto avanti io, ma non per spirito di sacrificio o per altruismo. Avevo capito che quella cosa mi sarebbe servita. Avevo provato quella sensazione che se avessi fatto quel viaggio, quello sarebbe diventato uno dei giorni che rimangono impressi nella memoria. Così mi imbarcai nel nuovo servizio con il soccorritore autista. Io dovevo assistere la ragazza e sua madre, che l'accompagnava. Logisticamente c'erano due grossi problemi: affrontare l'autostrada intorno a Milano durante l'ora di punta e a Padova raggiungere l'ospedale. Non so perché non fu scelto un elicottero, questo non l'ho mai capito. La prima immagine che ho in testa, nitida e brillante, è il viso della ragazza una volta arrivati a casa sua per caricarla in ambulanza. Sono convinto che se facessero un attacco alla mia testa, in una delle lastre lo troverebbero lì, il suo viso, come una diapositiva guardata in controluce. La ragazza si era avvicinata a me con un carrellino su cui era alloggiata la bombola d'ossigeno a cui non poteva mai rinunciare. Io ero solo un accompagnatore, non il mega chirurgo che l'avrebbe operata, non la madre che da sempre l'amava, non il suo fidanzato che stava tornando di fretta dal lavoro e che l'avrebbe raggiunta in macchina quando lei sarebbe già stata in sala operatoria. Io ero solo un accompagnatore. Siamo saliti in ambulanza e siamo partiti con le sirene lampeggianti. Il tempo passava e l'autostrada intorno a Milano era piena, ma in qualche modo ci lasciavano passare. Una volta usciti dalla città, per fortuna abbiamo trovato meno traffico e abbiamo proseguito il viaggio speditamente. Poiché noi ovviamente non avevamo praticità con le vie di Padova, per arrivare all'ospedale, al casello della città, ci attendeva una pattuglia della polizia per farci strada rapidamente e scortarci. Telepass, lampeggiata la pattuglia e via, senza fermarci. E poi, finalmente, l'ospedale. Scendiamo, saliamo in reparto e lì mi trovo davanti il super medico e alcuni suoi assistenti. Tutti giovanissimi, sorridenti e accoglienti con la paziente che già conoscevano. Il mio collega ed io abbiamo salutato e siamo ripartiti. Della ragazza che ho portato con l'ambulanza non ho praticamente nessuna notizia al di fuori di quello che ho scoperto quel giorno. L'unica cosa che mi ricordo costantemente è la sua positività, il suo attaccamento alla vita e la voglia di tornare ad avere una vita normale. Qualche anno dopo salgo sul treno che dal mio paese mi porta a Milano tutti i giorni per andare al lavoro. Alla stazione successiva si siede di fronte una bella ragazza, agile, con una borsetta in mano. I nostri sguardi si incrociano e i suoi occhi sono il ritratto della salute. Ci scambiamo un sorriso. Non so perché non ci diciamo nulla, ma sono sicuro che mi riconosce, così come io riconosco lei. Ero solo l'accompagnatore e lei la passeggera, ma i nostri visi ce li ricordavamo. Fare del bene per fare del bene. Questa è una cosa che ti insegnano sin da piccolo. Te lo insegnano a scuola, che devi volere bene ai tuoi compagni di classe. Li devi aiutare e diventarci amico. Te lo insegnano a casa, quando ti dicono di comportarti bene, di fare il bravo. E te lo dicono al catechismo, con il padre di tutti gli insegnamenti al bene, che è ama il prossimo tuo come te stesso. È bizzarro l'insegnamento al fare bene in questo paese e in questa cultura in generale, perché fare del bene spesso è faticoso e uno si deve mettere d'impegno, deve sprecare del tempo, delle energie e spesso deve togliere qualcosa a sé per darlo a qualcun altro. Insomma, fare del bene è una specie di seme implicito che viene piantato in ognuno di noi, sin dall'età più tenera, sperando che questo germogli e che noi diventiamo delle persone buone e quindi, immagino, il mondo è un luogo migliore. Solo che poi si esce di casa e si inizia ad andare in giro a incontrarlo, il mondo, e capiamo che essere buoni e fare del bene, qualsiasi cosa questo significhi, non è poi così facile. Anzi, capiamo che non solo è complicato, ma che spesso è più facile fare il contrario e che fare del bene non sempre paga. Non sembra così in realtà dal racconto di Paolo, che invece è la storia di un gesto fatto in maniera spontanea e senza aspettative, che però torna indietro quando meno te lo aspetti. Su un treno, un giorno qualunque. Grazie al sorriso di una ragazza che hai accompagnato a fare un'operazione importante. Ma se ripenso agli anni in cui ho iniziato a mettere in pratica gli insegnamenti del fare del bene ed essere buono, ricordo un sacco di delusioni. A volte li prese in giro anche. Ricordo in particolar modo la semifinale di un torneo da oratorio, di quelli roventi per la temperatura e le zanzare, in cui, dopo un intervento in area, ammetto, davanti a tutti, di aver toccato la palla con la mano. La squadra avversaria tira il calcio di rigore e segna. Ricordo bene le urla dagli spalti, ma soprattutto l'espressione con cui mi affrontò l'allenatore negli spogliatoi, che davanti a tutti mi disse: «La prossima volta fatti furbo». Ecco, io ancora penso che essere persone per bene sia meglio che no, ed essere buoni sia meglio che essere delle carogne. Eppure non credo in una giustizia superiore, che premierà i buoni e quelli che fanno del bene. Così come non credo nel giudizio universale, in cui davanti a un grande giudice qualcuno risponderà del bene che ha fatto e di quello che non ha fatto. I was walking through the counters of the national concern, and a cash machine was spitting by my shoulder, and I saw the multitude of faces, honest, rich and clean, as the merchandise exchanged and money rolled. And a woman hot with worry slyly slipped a tin of a stewing steak into the paper bag at her side. 349-238-6666. Donare gratuitamente qualcosa e farlo in nome di un ipotetico bene. Io dono anche il sangue, ma rinuncio al giorno di malattia per rendere l'atto più nobile possibile. Beh, però vai al lavoro un pochettino. Ah no, perché ti danno la brioche di solito. Ti danno la brioche o il panino dopo. Dono ortaggi, vale? Luca da Venezia. Non lo so, dipende da che ortaggi sono, a chi li doni. Tito scrive: 20 anni di CRI, che sta per Croce Rossa Italiana. E poi Alfredo: una volta in Grecia un uomo stava annegando, mi sono tuffato e l'ho salvato, mi sono rimasti impressi gli occhi di quello che hai salvato, immagino. Però questo non è proprio, cioè è un atto magnifico che ti nobilita, però non è proprio da annoverarsi nel fare del bene, cioè questo è, o meglio, questo è il super bene, però che è dato da una contingenza, no? Per cui non è che ti metti in testa: adesso vado là in spiaggia e chiunque anneghi io lo salvo. Cioè, mi sembra un approccio un po' diverso. 349-238-6666. È tutto perché Paolo, da ragazzo, faceva il soccorritore per la Croce Rossa. Pronto, Paolo? Eccomi. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Ma da ragazzo quanto tempo fa lo facevi? Da ragazzo dal 98 al 2001-2002, una cosa così. Quindi... prima come volontario e poi ho fatto servizio civile. Cioè, hai fatto il contrario, perché di solito si fa servizio civile, si entra in un'associazione e si rimane lì, no? Più o meno. Io ho iniziato come volontario, ho fatto servizio civile, poi sono rimasto ancora fino a quando poi ho iniziato a lavorare. Senti, tu quanti anni avevi quando sei entrato, quindi, nel 98? Ne avevi 18? 98, sì, no, nel 98 cosa avevo? 23, perdonami, perché sei del 75. Senti, che cosa spinge un ragazzo ventenne a fare del volontariato? Te lo chiedo a nome di tutti proprio, cioè come se tu fossi un ventenne, fossi stato un ventenne, che decideva di impegnare il suo tempo. Tu studiavi, immagino, all'epoca, no? Sì, io studiavo, facevo l'università e ho deciso di entrare nella Croce Rossa del mio paese. Questa cosa l'avevo, diciamo, iniziata così, tanto per vedere un po' come andava. Innanzitutto perché sì, avevo, come ho detto prima, una sorta di paura delle ambulanze, una sorta di angoscia mi veniva da bambino quando passavano le ambulanze. Allora ho pensato a un certo punto di combattere questa paura andandoci, esatto, sopra. Esatto, cercare di capire che cosa avviene sopra queste scatole rumorose. E infatti così sono entrato in questo. Poi da lì ogni giorno tirava l'altro, nel senso che diventava sempre più interessante. Ma cosa... Scusami, finisci pure. Sia come servizi, dico, sia come attività vera e propria, sia come conoscenze di nuove persone, cose di questo tipo. Ma che cosa ti portavi a casa ogni giorno dalla Croce Rossa? Nel senso che dal regalare del tempo, intendo dire. Nel senso che fare del bene ha un senso, certo, nel momento in cui è regalato, ma immagino che qualcosa uno se lo porti a casa, no? Sì, ci si porta a casa, secondo me, tutto quello che c'è, delle piccole cose che sono assolutamente positive e che sono a tratti invisibili e a tratti visibili, tipo, non è per essere romantico, però sono proprio queste piccole cose, tipo il sorriso di una vecchietta che viene soccorsa, sono queste piccole cose, certo, che ti rimangono impresse, perché per il resto si impara anche a essere un po', tra virgolette, cinici, per autodifesa su alcune tipologie di servizio. Immagino. Senti, e poi ti devo salutarti. L'ultimissima cosa, siamo sicuri che fosse lei la ragazza che hai incontrato sul treno, vero? Sicurissimo. Sono sicuro al 100%, sì. Paolo, ti ringrazio molto per il racconto, per la chiacchiera e in bocca al lupo. Prego. E in bocca al lupo per tutto. Ciao, okay. Paolo, grazie ciao, mille. Ciao, ciao. Servo colazioni alla domenica nei dormitori per senza fissi dimora con una onlus. Ciao, Tino. Ha deciso di nascondersi Paolo nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Lo fa grazie ad una felpa col cappuccio che si sta, credo, infilando. O forse l'ha proprio tirata su della serie Non voglio essere fotografato. È una felpa con scritto Yale University, per cui potrebbe essere, come diceva prima Tiziano Bonini, Occupy qualcosa, però a giudicare da quello che c'è dietro potrebbe essere Occupy Canegrate, che mi pare sia la sua città, perché c'ha il tipico palazzo, forse no, sì, è il tipico palazzo del centro città della città di provincia italiana. Gratuità, sostantivo femminile. Possibilità di fruire di un bene o di un servizio senza pagamento. Figurativo, mancanza di motivo o fondamento. La gratuità di un'asserzione. Etimo, dal latino tardo, gratuitas, gratuitatis. Data, secolo XVI. E come abbiamo cominciato a fare da quest'anno, dal 5 di settembre, con questa nuova stagione, ogni tanto quando c'è un argomento particolarmente interessante, come quello di oggi, no? Quello di Paolo, per cui si parla di fare del bene e di farlo quasi in maniera gratuita, beh, direi in maniera gratuita perché lui non ci guadagna nulla, ma sul concetto di fare del bene, di regalare il proprio tempo e il proprio spazio agli altri, esatto, questo era un argomento che appunto ci interessava provare ad approfondire, però visto che i nostri strumenti, quelli che abbiamo a disposizione, non sono poi così affilati, come spesso ci capita, abbiamo chiesto a una persona che ne sa un pochettino più di noi di raccontarci qualcosa di più. E oggi è il turno di una persona che, vabbè, inutile negarlo, che conosco, che è un amico, che è un, direi, giornalista culturale, scrive per il Corriere della Sera, per il Foglio, lavora per Radio 3 ed è Edoardo Camurri. Pronto, Edoardo? Pronto, buongiorno a tutti, ciao Matteo. Ciao, eccoli, pronto. Come stai? Bene, grazie, bene. Senti, Edoardo, tu sbaglio o sei laureato in filosofia, no? Io sono laureato in filosofia, in certo, filosofia. Mi occupo di filosofia, certo. Poi, diciamo, il tuo lavoro ti porta a occuparti di cultura in generale, però... Sì, però con un taglio sempre filosofico, per cui ci siamo. Guarda, scriverci. Allora, andiamo lì, andiamo esattamente al punto. Paolo, cioè l'autore della storia di oggi, racconta di questa esperienza e sono arrivati diversi messaggi al profilo Facebook e al 349-238-6666 che parlano proprio di come sia bello fare del bene, di come ci si senta meglio facendo del bene. Da un punto di vista meramente filosofico. Edoardo, da dove arriva il concetto del bene? Dove nasce? Se c'è un giorno in cui nasce? Se prima non c'era e dopo c'era? Ma il concetto di bene, sai, uno di quei concetti passepartout, c'è sempre stato. Diciamo che poi la filosofia lo ha messo, come fa con tutti i concetti, sotto critica, cioè l'ha posto a giudizio, all'esame filosofico e razionale. È un concetto complicato questo del bene, di fare del bene, innanzitutto perché è più facile definire il bene partendo dalla definizione del male, per opposizione abbiamo più frequentazione, ecco. Poi il bene, la cosa interessante del bene è che è un concetto indeterminato, cioè lo possiamo forse soltanto definire per negazione, ed è quanto indeterminato. Pensa a quando tu mi hai detto adesso fare del bene, mi è venuta in mente una scena di un film di David Lynch, di Elephant Man, dove a un certo punto uno dei protagonisti di questo film, che era un medico che si occupava di quest'uomo col volto da elefante, sì, che veniva utilizzato nei circhi, eccetera, lui si chiede, il medico che aveva in cura questo uomo elefante, ma io sono un uomo buono o un uomo cattivo? E il medico non riesce a dare una risposta a questa domanda. Ecco, io credo che quando ciascuno di noi se fa un po' di introspezione, lo fa in maniera dura, senza dare sconti a se stesso, forse è impossibile trovare una risposta a questa domanda. Cioè, forse, sotto sotto, nessuno di noi sa se è un uomo buono o un uomo cattivo. È questa indecidibilità che rende interessante, affascinante i concetti di bene e male. Ma Edoardo, non lo sappiamo mai. Schopenhauer diceva: nel cuore di ogni uomo si nasconde una belva. Ti ringrazio per citare Schopenhauer. Allora, anche nel momento in cui facciamo il bene, sì? Anche nel momento che facciamo il bene, c'è nascosto questo elemento di male e di nero. C'è una frase stupenda di Immanuel Kant, che si trova all'interno di un suo libro che si intitola La religione e i limiti della semplice ragione, sì, che prova a definire il concetto di male radicale, ed è molto interessante ed è molto forte. Kant, quando vuole definire il male radicale, non pensa a una guerra, alle devastazioni, dice questo: il male radicale è questo, quando non siamo del tutto infelici delle sofferenze che succedono ai nostri amici. Wow, questa è una negazione della negazione per affermare. Quando è un'affermazione pazzesca, perché va dentro la profondità oscura di ciascuno di noi e prova a smascherarne anche le migliori intenzioni. E senti, a questo proposito, Edoardo, perdonami, fermiamoci qui, perché c'è una cosa che mi ossessiona da qualche tempo, ed è questa. A me hanno sempre detto che ero un bravo bambino. No? Sì. Che ero bravo. Mi hanno fatto bene a dirlo. E che fa bene i bambini. Ok. E poi in generale mi dicevano che ero una persona buona, e soprattutto me lo dicevano quando avevo la sensazione di essere fregato. Cioè, che qualcuno o prendesse un posto che aspettava me, oppure semplicemente, parlo per me, ma parlo di tutte le persone che sono considerate buone. Cioè, è come se ci fosse un'educazione all'essere buono, ma in realtà poi quelli che ce la fanno sono cattivi. Questa è più o meno una sorta di, l'ho detta male, no? Ma di insegnamento dei giorni moderni. C'è un'educazione a tenerci buoni. Che è un'altra sfumatura interessante, adesso sto prendendo il tuo ragionamento. C'è l'educazione, comunque ti succedono delle cose antipatiche, ha detto: non reagisci, bravo, sei stato bravo, ti tengo buono. Forse quindi c'è più un'educazione al tenere buone le persone piuttosto che a farle diventare buone, sempre che non sappiamo cosa sia il concetto di buono e cattivo. Certo. I due concetti sono Senti, assolutamente... E l'ultima cosa, Edoardo, e poi ti devo salutare, ti ringrazio. A proposito di questa storia e dei messaggi che arrivano, che ci dicono che fare delle cose gratuitamente, cioè appunto regalare il proprio tempo per il volontariato o per sentirsi, per fare del bene generalmente senza chiedere niente indietro, sia una cosa meravigliosa e ti faccia sentire meglio. È proprio vero che fare del bene è sempre gratuito? Cioè non torna qualcosa in realtà anche a noi? Non torna qualcosa, potrebbe non tornare qualcosa. Innanzitutto, ovviamente, chi fa volontariato, chi si impegna per gli altri, sono persone straordinarie, fantastiche, che devono meravigliose, che si meritano soltanto applausi e quant'altro. Ma filosoficamente parlando, il discorso è interessante, perché certo, fare del bene gratuitamente per se stessi, ma certo c'è sempre un ritorno per il proprio ego, probabilmente. Noi riusciamo a fare del bene solo grazie al fatto che ci sono delle persone che soffrono, È un bene, adesso volendo dire una cosa controcorrente, antipatica, è un bene parassitario. Cioè, è come un parassita che cresce sulle sofferenze altrui per cambiarle, certo, ma che, come dire, è il bene che non può che agire sul male e nutrirsi di quel male per trasformarlo. Ecco, questo mi sembra il concetto, Edoardo, il concetto interessante. Ti ringrazio moltissimo per la chiacchiera, e anche se, come al solito, ogni volta che parlo con te non capisco proprio tutto, però la sensazione alla fine di essere una persona un pochettino migliore. Grazie mille. No, è migliore, per carità. Grazie, te, ciao Matteo, Edoardo Camurri. A tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie. Ciao. 349-238-6666. A proposito di fare del bene, di farlo gratuitamente, se diciamo qualcuno ha ampliato la propria concezione di bene grazie a Edoardo Camurri, ebbene allora meglio così. Preparo omogeneizzati per le famiglie con i bambini piccoli ma con genitori disoccupati. Ma sapete com'è diventata piena e soddisfacente la mia vita? Cristina da Brescia? No, Cristina, non lo sappiamo, però ce l'hai appena detto tu. Il venerdì pomeriggio faccio quello che serve in una comunità protetta per minori. Ah, faccio non quello che serve, faccio qualsiasi cosa serva in una comunità protetta per minori. Da quando ci vado so che la vita mi ha concesso di essere un genitore fortunato. Invece oggi abbiamo fatto una cosa che non abbiamo fatto le altre volte, ed è, sapete, la parola del giorno, no? Noi cerchiamo di identificare una parola che racconti tutto il racconto, cioè una sorta di parola chiave. E chiediamo poi alla nostra Alessandra De Luca, la speaker di Radio 24, di raccontarcela leggendo di fatto un dizionario. Oggi l'abbiamo pubblicato sul profilo Facebook, che è Voi Siete Qui Radio 24, e sono uscite delle alternative alla definizione del dizionario, che ricordo è quella di gratuità, possibilità di fare di un bene o di un servizio senza pagamento, figurativo, mancanza di motivo o fondamento, la gratuità di un'asserzione. E le possibilità sono, Cristina, estensione di gratuità. Vabbè, sì, Cristina, sei sicura? Sei sicura di aver scritto un post per un altro profilo Facebook di un altro programma? Alanda, regalare e donarsi. Laura, sorridere e a volte anche piangere. Bar Carducci, c'è uno che ha il profilo col nome del proprio bar. Estensione di reciprocità disinteressata, gesto empatico positivo, scevro di opportunismo, oggettivamente privo di qualsiasi forma di calcolo e di guadagno da parte di chi lo attua. Wow, Bar Carducci, eh? Forse è un copia e incolla. Aspetta, facciamo la prova subito del copia e incolla. Guarda, questo me l'ha insegnato un mio amico che lavora all'università e che ogni tanto, quando gli portano le tesi, fa un copia e incolla e lo mette su Google e vediamo cosa esce. Copia e incolla. No, non c'è nessun dizionario che lo riporti. Quindi bravo Barcarducci. Paola, dare senza aspettarsi nulla in cambio, neanche un sorriso. 349-238-6666. Sono Dennis e sono volontario soccorritore di una onlus di Lamon Belluno, soccorritore BLSD. Ciao e buona serata a Tiro. Sarà una definizione di soccorritore. Se avete voglia di ascoltare la puntata, cioè il programma, non in diretta, se non potete ascoltarlo in diretta, potete scaricarvi i podcast. Andate sul sito di Radio 24, c'è una voce, si chiama podcast, è in alto più o meno, e scorrete tutti, perché noi siamo in fondo, siamo in ordine alfabetico, quindi andate a Voi Siete Qui, ci cliccate sopra e vi scaricate le ultime 5 puntate del programma. Se volete fare più in fretta, vi abbonate gratuitamente ad iTunes e vi scaricate automaticamente tutte le ultime 5 puntate, così, senza che nemmeno ve ne accorgiate, e questo per ascoltare in podcast. Se volete invece seguirci dal profilo Facebook e Voi Siete Qui Radio 24. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina e Pietro Lacorte. La storia di oggi era di Paolo e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Ivana e abito ad Albisolo in provincia di Savona, e la storia di domani è la mia e parla della vita intesa come un viaggio in treno. Questa è la mia storia ed io sono qui.